di fotografie di guerra, di città bombardate, di ponti spezzati, di raffinerie in fiamme, di profughi in fuga, sono ovviamente pieni i giornali. Ma oggi vorrei parlarvi, se me lo consentite, di due immagini che nel loro accostamento mi sono sembrate particolarmente significative. Le ha pubblicate entrambe il Corriere della Sera di qualche giorno fa, mercoledì 7 aprile, in prima pagina, a colori. La prima, posta direttamente sotto il titolo principale, la NATO respinge la tregua di Milosevic, 9 colonne, raffigura su uno sfondo di edifici variamente smozzicati un orribile ammasso di rovine, da cui spunta, terrificante, una mano umana. In primo piano una figura in uniforme proietta con una torcia elettrica un raggio di luce su questo macabro reperto. Si tratta, prendiamo dalla didascalia, di una scena colta dall'Eksinac, la città mineraria serba colpita per errore dalle bombe della NATO. L'uomo in uniforme è un poliziotto, evidentemente impegnato nei soccorsi. Anche nella seconda foto, che è collocata immediatamente sotto, accanto al titolo di taglio centrale, Albania, spariti aiuti ai profughi, 5 colonne, e figura un uomo in uniforme. È un militare in tuta mimetica che porge il biberon a un esserino che tiene teneramente in braccio. Si tratta, dice sempre la dicitura, di un militare gallese intento ad allattare un neonato albanese in un ospedale da campo di Sjekovec, in Macedonia, dove si trovavano ammassati migliaia di rifugiati kosovari. La morte e la vita, insomma. La guerra vista come distruzione e tragedia, ma anche come occasione di solidarietà per i più deboli. Due messaggi che vengono evidentemente da due schieramenti opposti. La foto di Aleksinac evidenzia il punto di vista serbo, sottolineando lo strazio delle vittime civili. Quella di Sjekovec ci fa capire come i responsabili NATO vedano o cerchino di far vedere se stessi e i loro uomini come persone impegnate, prima di tutto in un compito di solidarietà che prevede sì qualche azione distruttiva, ma con il fine sempre presente di salvare degli innocenti. E in effetti, di foto di soldati intenti a prodigarsi a favore di quegli innocenti per eccellenza che sono i bambini, sui giornali di questi giorni ne compaiono spesso. Lo stesso Corriere, sfiorando un po' ridicolo, ce n'ha inflitto un altro all'altro ieri e una ce ne infligge oggi. Però è strano. A me quelle immagini, le due immagini da cui sono partito, non sono sembrate affatto convogliare il messaggio che erano così evidentemente deputate ad esprimere. Era ovvio, per esempio, che il poliziotto serbo non fosse in alcun modo responsabile della scena di rovina in cui compariva, se non fosse nei termini di responsabilità collettiva che le potenze, chiamiamole così, hanno voluto segnare a tutto il suo popolo. Eppure la sua presenza in quel contesto con quell'uniforme dava un'impressione stranamente sgradevole, come se a far crollare quegli edifici fosse stato lui. Ed era altrettanto ovvio che il militare gallese, con quella sua aria mite, con quel gesto di tenerezza un po' impacciata con cui svolgeva lui così evidentemente virile il ruolo della brava mammina, doveva suscitare simpatia e commozione, doveva far passare in secondo piano le responsabilità dei suoi commilitoni per le stragi di cui l'altra foto era testimonianza, ma credetemi, proprio non ci riusciva. Sarà il fatto che le tute mimetiche e le bottiglie di latte dal punto di vista iconografico proprio non quagliano, mentre quagliano e come le uniformi e le rovine, ma a chiunque avesse un briciolo di sensibilità quell'immagine faceva venire soprattutto voglia di strappare il bimbo dalle braccia di quel grosso soldato e di portarlo al sicuro. Perché la sorte dei profughi kosovari in Macedonia non è esattamente la più sicura del mondo e chissà che fine avrà fatto una volta scattata la foto quel povero bambino. D'altronde sappiamo tutti che quello di presentarsi come organizzazioni eminentemente benefiche è un vezzo comune da qualche tempo a tutti gli eserciti. Gli stati maggiori, i mercanti d'armi, sono quelli di sempre. Ma la cultura contemporanea ha interiorizzato quel tanto di ipocrisia collettiva che impedisce di gloriarsi come un tempo della propria capacità di fare il nemico a pezzi. Della guerra, quando proprio non si può fingere di non farla, come adesso, si sottolinea la moralità sul piano dei fini, come se bastasse assegnarle certe lodevoli scopi, por fine un'ingiustizia, restituire dei diritti, eccetera, per farne una di quelle operazioni umanitarie, tra virgolette, in cui gli eserciti di oggi sono ostensibilmente specializzati. Il che è evidentemente impossibile, perché la natura stessa della guerra precluderne un ruolo morale qualsiasi. La guerra è indifferente per necessità operativa alle responsabilità individuali. È strutturata in modo di colpire certuni per determinare l'atteggiamento di certi altri. Vede nelle sue vittime, militari o civili, non importa, la materia grezza di una contabilità da far valere in sede di bilancio finale. Una volta si diceva carne da cannone. E contravviene così per definizione a quella insostituibile norma della ragion pratica che impone di considerare ogni essere umano come un fine e non come un mezzo. È un'attività intrinsecamente immorale che non può essere riportata alla dimensione etica né in nome dei fini né in quello della necessità. Una descrizione etica della guerra è solo propaganda. Anche il piccolo kosovaro stretto nelle braccia del militare gallese è stato usato da chi ha diffuso la sua immagine come strumento di propaganda, come un mezzo appunto. E sarà per questo che quella foto non può proprio convincere.